Questo viaggio in cui c'è ancora una canzone per noi che sfuma col tramonto sul deserto. Io e te, due gocce di smalto e litri di acetone, un disco rotto che gira a campi di cotone e un maledetto bouquet. E io e te, due note sopra un pentagramma di rumori, due api in volo a caccia di colori, foulard e cabriolet. Due tasche piene in un armadio vuoto, ancora in piedi dopo un terremoto. Questo viaggio in cui la radio ruba le stazioni e noi che siamo sopra un treno ormai deserto, adesso cado giù e ti lascio aperto se mi prometti che la stessa guancia, pesanti come piombo dritto nella pancia. E allora sai che c'è? Gocce di smalto e litri di acetone che troveranno un'altra soluzione. Questo viaggio in cui la radio ruba le stazioni e noi che siamo sopra un treno ormai deserto, il nastro su un pensiero mai aperto. Questo viaggio in cui la radio ruba le stazioni e noi da sole sopra un treno ormai deserto, adesso cado giù e ti lascio aperto se mi prometti che salti pure tu. Se mi prometti che salti pure tu.